Avventurieri, avete scelto la via più audace, la scalata. Una decisione coraggiosa, ma non priva di insidie. Per salire dovrete calcolare ogni movimento con precisione assoluta. A ogni passo dovrete distribuire il vostro peso tra tre punti di appoggio. Una corda, che può sostenere 400 newton di forza, e due appigli rocciosi. Ognuno di voi ha un peso di circa 980 newton. Dunque, quanta forza in newton deve supportare ciascuno dei due appigli affinché possiate salire in sicurezza?